come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono colpi di quando stofanti di la mille topi tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che giorno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Tutti in coro! Co co co! Cucuru curu curu curu qua qua! Chi chi chi! Co co co! Con tanti galli che cantano troppe galline rispondono. E va bene. Poniamo fine a questo strazio in momenti drammatici, in questi momenti drammatici per il paese. Che da c'è poco da ridere, come dire, la situazione economica, i provvedimenti del governo, eccetera, eccetera. Siamo qui con la Zanzara e vi faccio subito sentire Berlusconi come si pone di fronte alla crisi. Sapete che io non so cosa ridi, stai calmo. Sapete che io non sono mai stato un catastrofista, eccetera. Anzi, cioè, credo che ci siano molte esagerazioni sul disastro, sul collasso, eccetera, eccetera. Però, sentiamo Berlusconi e i ristoranti, la famosa storia dei ristoranti sempre pieni. O delle vacanze sempre, no, delle agenzie di viaggio che non riescono a, no, sold out. Bravo Berlusconi. Grazie. Noi siamo veramente un'economia forte, la terza economia europea, la settima economia del mondo. La vita in Italia è la vita di un paese benestante, in tutte le occasioni questo si dimostra. I consumi non sono diminuiti, i ristoranti sono pieni, gli aerei, bisogna con fatica si riesce a prenotare dei posti, i posti di vacanze nei ponti sono assolutamente iper prenotati. Hai capito? Due parole. Dimmi due parole. Ora basta! Non si sente la crisi come dicono i giornali. Non la sente nel modo spasmodico che appare nella opinione giornalistica e nella rappresentazione che ne fanno i giornali. Il modo spasmodico con il quale i giornali presentano la crisi. Abbandonare la maggioranza è tradimento. Oggi abbandonare però il gruppo parlamentare, abbandonare la maggioranza è un atto di tradimento nei confronti non del Popolo della Libertà, ma nei confronti del paese. E ancora sentite proprio nell'incedere di chi co che va avanti in maniera anche vorticosa. Quando parlerò con i dissidenti, che ormai in realtà non si capisce quali sono, perché sono tutti e nessuno poi in realtà, perché tutti quanti stanno aspettando ormai, i numeri non ci dovrebbero essere per la fiducia la settimana prossima. In ogni caso, quando ci parlerò torneranno sulle loro posizioni. Io sono assolutamente sicuro che anche i componenti del nostro gruppo parlamentare, quando verranno a contatto con me, ritorneranno sulle loro ultime posizioni, che sono dettate, lo so benissimo, dal fatto che restare in Parlamento a dare il proprio voto a dei provvedimenti senza partecipare alla formazione di questi provvedimenti è un'attività alienante. Poi su Antonione, per esempio, una delle persone che si appresta a lasciare il PDL, a votare contro Berlusconi, dice: ho partecipato, sono stato testimone di nozze di sua figlia, non so, una cosa, ecco, di questo tipo, no? Vabbè, o suo testimone, non ricordo bene, no, qual è stata la cosa. Brunetta, il governo tecnico è un golpe, sentiamo. Beh, solito moderato. Io lo considero un golpe, vede, il governo tecnico, non ha, perché forse no. Io non sono un tecnico. Io faccio il professore di mestiere, faccio l'economista di mestiere, però mi sono fatto eleggere. Su questo ha ragione lui, al 100%. Ha ragione lui al 100%. Ma vedo quando lo dice, vedo un ghigno. Sai il ghigno di Brunetta quando dice che è meraviglioso? Un golpe? E cretino, cretino, e fai il golpe, cretino. Non capisco tanto orgasmo per il governo tecnico. Tanta orgasmo per il governo tecnico sinceramente non lo capisco, a meno che non ci siano i cosiddetti poteri forti che soffiano su questa scelta. E i poteri forti, come si sa, non sono democratici, hanno interessi non sempre nobili, vogliono fare affari i poteri forti, tanto per essere chiari, e ai poteri forti sta un po' stretta la democrazia. Hai capito? Sì, ho capito, che però non è che alcuni esponenti del governo non abbiano fatto affari in questi anni, diciamo, comunque va bene così, se allora, piace così. Senti, sì, questa canzone, senti questa canzone. No, però sai chi ci vorrebbe senti, sentila, fase? Sentila, senti questa canzone. Sì, scusa. Vivo ogni giorno di più con questa angoscia che ho in me. Allora, il maestro Mariano Apicella, ieri sera ospite della Zanzara, che cosa ci ha detto il maestro? Ma non chiamarlo lei maestro. Ma perché non posso chiamarlo maestro? Ma anche per lui, per rispetto alle sue Il maestro Mariano Apicella, menestrello, non me ne voglia il maestro, ma insomma menestrello di Berlusconi, oltre a tante altre cose naturalmente, ecco. E ci ha detto che l'ultimo fine settimana lo ha trascorso ad Arcore, dove ha limato gli ultimi pezzi del disco, che ufficialmente, lo sappiamo, uscirà il 22 novembre, per volontà anche dello stesso Berlusconi, che ha molto premuto, così ci ha detto Apicella, perché esca. Insomma, abbiamo guardato insieme i pezzi del disco. Io sono stato questo weekend con il presidente ad Arcore, gli ho tenuto compagnia, non abbiamo suonato nulla, abbiamo così rivisitato un pochettino i pezzi del disco, eccetera eccetera, ma non mi sono esibito del tutto, voglio dire, in questa compagnia che gli ho tenuto. Diciamo che abbiamo trovato pure 10 minuti per rivisitare un po' i pezzi del disco che dovrà uscire. Sarà stato un quarto d'ora, ma voglio dire, ma non è stata una nottata intera o una giornata intera. Ci teneva a dire che non è che ha speso no, ore e ore per limare, però insomma ci vuole anche del tempo, no, per mettere a posto, sì, i pezzi di un disco, insomma. È poco credibile che è stato lì tutto il pomeriggio, tutto il giorno, tutto il weekend, però dice abbiamo lavorato al disco solo un quarto d'ora, e il resto del tempo cosa ha fatto il signor Apicella? Ha scritto la finanziaria. Che ne so. Questa è la Zanzara, 800240024, è con noi Santo Versace. Buonasera, come sta? Tutti voi. Come andiamo, Versace. Signor Versace? Lei è mai stato con Apicella, ospite da Berlusconi? Ma con Apicella mi pare di no. No, mi pare eh? Le volte che siamo andati di Apicella, no, mi pare che non ci fosse. Non ricordo, sì, forse una volta a cena sì, a Villa Gervetto c'era anche Apicella. C'era anche Apicella, eh. Senta, il signor Verdini in questi giorni, in queste ore, sta chiamando anche lei. Sa che il signor Verdini è il, come dire, quello che è alla caccia di deputati, no? Cioè, il telefonista. Telefonista. Alla caccia di deputati. Verdini fa il suo lavoro, quello di cercare di tenere unita la maggioranza. Appunto, di recuperare, no, certo. Di recuperare le persone, di discutere tutto il resto. Ma ha chiamato anche lei? Ma con me ci siamo visti prima che partissi per l'America per andare al NIAF a ritirare il primo che ho mandato sabato scorso. Ah, quello al NIAF, sì, all'associazione, sì, degli americani. La presenza di Obama, che hanno prenderato la mamma Marsegaglia a me. Sì. E scusi, Versace, ma ha cercato di convincerla, ha detto qualcosa per ma dire? Lui, no, lui giustamente dice, io con te non mollo, devi assolutamente tornare. Molto affettuoso, molto carino, deve tornare, vedrai. Ma anche Paolo Romani mi ha detto, vedrai che i provvedimenti che faremo sono quelli giusti, li stiamo scrivendo tutti insieme al Presidente. Ma le ho offerto qualcosa di concreto? Ma di concreto mi parlano sempre, ma quello che a me interessa, io non ho richieste personali, ho richieste per il Paese, per i cittadini. Ho capito, però che cosa le offre? Che cosa le premio, un premietto? Per lei, no, io non ho bisogno, per mia fortuna, io sono fortunato, non ho bisogno di né di premi né di premietti. Il mio interesse è che sì, cioè io. Ma cosa ha risposto lei a Verdini? Scusi, Versace, cosa ha risposto? Ho risposto a Verdini che è molto difficile che io torni indietro sui miei passi, perché per tornare indietro sui miei passi bisogna che si vedano che l'economia, si risani l'economia e che si facciano i provvedimenti. E che Berlusconi si faccia da parte, o sbaglio? Ma quello io ho detto molto chiaramente, o Berlusconi è in grado di fare i provvedimenti che servono al Paese per tornare a una situazione economica corretta, con uno spread corretto anche con i bond tedeschi. Ho capito, però qui, poi se non è in grado di farlo, che si faccia da parte. Però scusi un attimo, Versace, lei è stato uno dei primi a uscire, giusto? non ha già una volta non ha votato la fiducia, adesso la settimana prossima che farà? Ce lo può dire chiaramente? Ormai il dato è tratto, la sua decisione dovrebbe essere presa. Voterà la fiducia o no? La decisione è stata presa il 29 settembre. Benissimo, esatto. Dunque lei la settimana prossima che fa? La fiducia? Io sono fuori dal PDL. Ok, benissimo. La maggioranza e la fiducia la vota la settimana prossima o no? Quando ci sarà? Se ci sarà? La fiducia al governo non la voto. Non la vota sicuro. La fiducia al governo non la voto perché ho visto che i provvedimenti che servono, c'è il taglio della spesa pubblica. Non c'è. Una concreta lotta alla corruzione, una riduzione dei costi, perché il problema nostro è di tagliare la spesa pubblica. Sì, certo, non c'è nulla di tutto questo, non c'è niente. Dal Quirinale a Palazzo Chigi, a Palazzo Madama, a Montemisitore, alla Corte, alla Consulta, costano tutti il doppio del necessario. Questo è un aspetto. Sì. E poi la lotta alla corruzione non se ne parla neanche di farla. E via dicendo, si parla delle intercettazioni, per cui io sono dell'idea che le intercettazioni vengono molto dopo, quindi chiaramente il problema è. Certamente siamo tutti attenti all'interesse del paese. Noi vogliamo che comunque in ogni caso, se lei dice io la settimana prossima sicuramente non vedo l'ombra di un provvedimento in questa direzione. No, dobbiamo leggere tutto quello che viene. Però portato, la fiducia è esclusa. Ma la fiducia mi sembra al 99,99% esclusa. Ecco, è tempo di cambiare, Versace, è tempo di cambiare per che cosa? Ma ho detto che visti i risultati, visto che si era partiti con una maggioranza straordinaria, che si è stati capaci di spaccare una maggioranza quella che era, visto che se ogni volta si dice che il paese ha posto tutto il resto e poi dobbiamo fare tre finanziarie, tre provvedimenti, tre finanziarie in tre mesi, mi pare che non stiamo funzionando. Scusi un attimo, ma allora questo gruppo che si sta formando, che si chiamerà Riformatori, non so come, quando si può annunciare questo gruppo? Quando si costituisce? Si annuncia quando si costituisce. Quando si costituirà? Ma ragazzi, per costituirlo bisogna avere i numeri, adesso tante parole, tante 20 persone, muovendo, no? Diciamo 20. Che settimana prossima sarà una settimana decisiva per molti aspetti, si chiariranno tante cose. Sono 20 persone per costituire un gruppo, giusto? Sì, per fare un gruppo ci vogliono 20 persone. Allora, deputati. Mi dica qualche nome di questo gruppo. No, i nomi sono quelli che leggete sui giornali. Vabbè, a parte quelli che... Noi non leggiamo i giornali. Neanche io, guarda, leggiamo i due. Non leggiamo i giornali, come Tremonti. Oggi Tremonti ha detto io i giornali non li leggo. Noi ci finiamo sui giornali, caro Versace, non li leggiamo. Allora, scusi, no, Versace. Avete già letto, Giustina Adesso non ha votato la fiducia, Salvini non ha votato la fiducia. Antonioni. Ma vediamo anche cognome. Antonioni ha detto che non la vota, c'è tanta gente in movimento. Ma la settimana poi prossima visto che Bonciani e la Lida di Porto sono passati all'UDC, però quello è un altro discorso. Sì, quindi è un movimento continuo. A lei piace questo movimento continuo? Sono d'accordo col fatto che il presidente dica che chi lascia la maggioranza è un traditore. Ecco, mi dica se qualcosa su questo. Se dobbiamo parlare di tradimento, allora andiamo chiari su un fatto. C'era un impegno di ridurre la spesa pubblica. C'era un impegno di tagliare le province. C'era un impegno di abbattere la burocrazia. Cioè traditore è lui. Ma direi che sostanzialmente questo governo, cioè insomma Versace le ha dato traditore nel non ha fatto molte di quelle cose per cui si era impegnato. Dunque, voglio dire, e nel momento in cui un paese ricco e forte come l'Italia viene messo sotto tutela, vuol dire che questo governo ha fallito. Allora Versace le ha dato del traditore Berlusconi oggi, ha detto lei ha lasciato la maggioranza, è un traditore. Come risponde a Berlusconi? Traditore sarà lei, o sbaglio? No, io rispondo che io sono Santo Versace ed in politica sono stato invitato per quello che ho fatto nella mia vita e per quello che rappresento. E non mi si dà del traditore. Non sono dipendente di nessuno. Non sono dipendente. Sono dipendente dei cittadini. Cioè, io lavoro per i cittadini italiani. Quindi un parlamentare non deve essere né dipendente né sottomesso. Non sono dipendente di Berlusconi. Non sono un suo dipendente. Quindi io ritengo quello che ho fatto, ho difeso la maggioranza l'anno scorso il 14 dicembre, sono stato determinato. Cioè è lui che ha tradito il mandato elettorale, questa è la sostanza. Ma diciamo che questo governo ha messo l'Italia in pessime condizioni. La questione è che lui dice che non si sente la crisi, benissimo. Allora mi spiega perché paghiamo il 6% sui buoni del tesoro quando pagavamo il 2-3%. Me lo spiega che cosa è dovuto. Abbiamo il traffico, torniamo subito, Versace. 800-24-00-24. Traditore, Versace, traditore. Eccoci qui 800-24-00-24. Allora Berlusconi, come avete sentito prima, ha dato del traditore chi abbandona la maggioranza. Io vorrei chiedere a Versace una cosa molto semplice. Visto lui parla sempre di, giustamente, di lotta alla corruzione, che era uno degli impegni che aveva. Ma secondo lei, onorevole Versace, il signor Cosentino, il signor Verdini e il signor Milanese sono in grado di fare la lotta alla corruzione? Domando. Ma cosa c'entra adesso? Non sono in grado di fare la lotta alla corruzione. Non sono in grado. Come mai? Versace, ma perché Berlusconi, lei che lo ha conosciuto, lei che è anche, come dire, in grado di capire la psicologia del personaggio, no? Perché rimane così aggrappato, a dispetto di tutto, di una evidenza che ormai questa maggioranza non può andare avanti, è aggrappato a Palazzo Chigi? Mi dà una spiegazione sua, anche psicologica, oppure no? Una sua spiegazione? Perché lui è convinto di essere il migliore, secondo me. Ah, è per questo, è convinto di essere meglio. Io invece ho sempre, mio padre mi raccontava da piccolo, riferendosi, questo l'abbiamo detto anche prima, al ministro francese Clemenceau, che sempre ricorda che il cimitero è pieno di indispensabili. Ah, beh certo, il cimitero è pieno di indispensabili. Dunque lui si Poi sente... una cosa molto importante, parliamo dei traditori. Sì. Il taglio della spesa pubblica improduttiva non è stata fatta, la riforma delle pensioni di anzianità non è stata fatta, il piano per il sud non lo vediamo, investimenti in infrastrutture, energia e banda larga sono lenti, la liberalizzazione delle professioni ha di là da venire, la semplificazione della burocrazia un po' si è fatto, un piano di gestione del patrimonio immobiliare pubblico, le società miste di gestione dei servizi comunali che sono Scusi, non continui perché mi sento male, solo a sentire queste cose. Scusi Versace, perché ha ragione. Ma questa è la politica, quindi chi ha tradito? Sì, ma non è che chi ha tradito, mi dica lei, chi ha tradito? Io non ho tradito nessuno e anzi sto lavorando per i cittadini e per il paese e cerco di fare del mio meglio. Però qualcuno dice lei è stato eletto con Berlusconi e adesso tradisce, perché lascia Berlusconi e vota la sfiducia. Io sono stato invitato ad entrare in politica non in quanto politico di Ma è stato eletto col simbolo Berlusconi, C'era mi pare che la legge elettorale non l'ho fatta io. L'hanno fatta loro, se l'hanno sbagliata a farla è peggio per loro, voglio dire, non va bene, va cambiata. Ma questa scusi, all'estero, in America, quando lei è andato in America, Versace, scusi un attimo, adesso a prendere quel premio, no? Insieme alla Marcegaglia, eccetera, eccetera, cosa dicevano di Berlusconi lì? Mi dica. Questo che già mi è successo, che mi ha portato al 29 settembre a decidere. Ma là in America adesso cosa dicevano? Ma sai, i nostri amici dicono che sostanzialmente l'Italia non è ben rappresentata. Mi dica qualcosa di più, cioè, vuol dire, nei pur parlé lì. No, non diciamo volgarità. Come volgarità? Non diciamo volgarità perché io non voglio essere, non sono una persona che dice volgarità. Perché si esprimevano in modo volgare? Beh, abbastanza, voglio dire, allora. Ero su a New York, sono passato anche a salutare dopo Washington, sono passato a New York, sono andato a salutare e a vedere i titoli, mangia italiano, l'iniziativa che c'è, e c'è una persona simpatica, molto simpatica, che fa la trasmissione televisiva con altri, dice guarda io il passaporto italiano e svizzero, adesso quell'italiano non lo faccio più vedere. Perché sono arrivato in Marocco, appena hanno visto passaporti italiani, alla prima cosa ha detto bunga bunga. Cioè lei non fa più vedere il passaporto italiano? Ma non io. Ah, io quella persona lì. Io sono orgoglioso di essere italiano, faccio vedere sempre il mio passaporto. Per una persona, divertirsi, scherzando, l'altra sera, a New York mi diceva, vedi, questo passaporto italiano è quello svizzero. Adesso, ho detto a mia mamma, per adesso per un po' faccio vedere solo quello svizzero. Faccio solo quello italiano e sono orgoglioso di farlo vedere. E sono orgoglioso di essere italiano, nonostante i problemi che ci creiamo da soli. Scusi un attimo. Questa è la solita cosa che si dice. Un po' snob. Scusi un attimo, però, secondo lei, come sta cercando di convincere in queste ore Verdini i parlamentari a rimanere con Berlusconi? In che modo? Con quali tecniche? No, le tecniche, Verdini è una persona che giustamente ti richiama al discorso, poi si è stato eletto, quello si sta facendo, gli interessi della nazione, è un grande raffinato parlatore. Cioè con la parola. Mi riguarda personalmente, non posso dire altro perché nessuno, se sento dire determinate cose, ma nessuno con me si permetterebbe mai di dire cose del genere, per cui io penso che non le dica manco agli altri. Comunque c'è gente, lei mi diceva, c'è gente che non fa vedere il passaporto italiano, questa è la realtà. Beh, no, uno che non esageriamo adesso, è una persona molto simpatica e divertente, che ha il doppio passaporto italiano e svizzero, perché è di madre svizzera, e quindi in questo periodo ha detto, invece di far vedere quello italiano, in questo periodo faccio vedere quello svizzero. Ma è una persona, non generalizziamo. Vabbè, non c'è, però può succedere, le è successo anche... Perché non può che avere tanti passaporti. Come, scusi? La maggioranza ha un solo passaporto. Come va a finire, Versace? La questione mi pare sempre. Ma qui siamo qui giorno per giorno a osservare quello che accade. Io spero che ci siano, che i provvedimenti siano incisivi, che si facciano le cose che si devono fare. Vabbè, che ho capito. Il Parlamento è sovrano, ognuno dovrà fare anche l'esame di coscienza e vedere quello che si facciano le cose bene per il paese. Siamo in un momento molto delicato. Questo sì, ma questo non, non c'è dubbio, questo non c'è dubbio. Scusi. Però non si può permettere il primo ministro di dire queste cose, che chi ha tradito realmente è lui. Chi ha tradito realmente è il primo ministro, è questo governo che non è riuscito a tenere l'Italia al riparo della tempesta. Com'è che dici? No, che non ho capito perché alla mia domanda risposto semplicemente no. C'è da capito perché Cosentino, Verdini, oddio, costo Cosentino, Verdini non sono in grado di combattere la corruzione. Ma sei fissato? Perché... Ma la gente non sta parlando di Cosentino, no, e di Verdini. Che queste persone sì, probabilmente non si sono impegnate, non sono in grado. Tutti sono in grado di combattere la corruzione se hanno voglia. Ecco, però voglio dire, ci vuole un impegno forte e consistente. Loro, queste persone qui, bisognerebbe chiedere a loro. Io sono convinto che si possono impegnare di più. Senta, lei quando cade Berlusconi la settimana prossima brinda? No, io non brindo mai, non faccio. Beh, brinda, sono molto dispiaciuto perché ho accettato di entrare, di tornare. Senta, che può fare Berlusconi? Berlusconi, secondo lei, che può fare? Adesso che fa? Che deve fare? Ritirarsi, andare per godersi le ville? No, quella sarebbe la cosa più normale. Il discorso, io l'ho detto e lo ripeto, l'ho detto anche. È meglio che si goda le ville, è meglio che si goda le ville. No, ma in senso buono, in senso buono. Il mio obiettivo, l'obiettivo di noi parlamentari, ma di tutti i cittadini italiani, è che si risolva questo problema. D'accordo, ma si deve godere le ville o no? Ma secondo me, se lui si gode la vita. Con tanti galli che cantano, troppe galline rispondono. Eccoci qui, la Zanzara riprende alle 19.17, 800 24 00 24, per chiamarci, con Davide Parenzi, collegamento da Roma, naturalmente. Dalla sette. Andiamo subito a sentire i titoli del TG3, come ci presenta la giornata il telegiornale diretto dalla signora Berlinguer. E come sapete, bacchettato nei giorni scorsi da chi? Vediamo se ti ricordi, Parenzo? Non ho capito se stava parlando con me, scusi? Sì, certo che stavo parlando con lei. Ah, chiedo scusa, perché sto facendo il mio secondo lavoro. Mi dica, chiedo scusa. Scusi. Chi parla intanto? Sono Cruciani. Ah, Radio 24, salve Cruciani, bella trasmissione. Dica, scusi, ero di Francia. No, dica. Volevo sapere, ma da chi è stato bacchettato nei giorni scorsi il TG3? Dal presidente della RAI, il dottor Garimberti, ex editorialista di Repubblica, peraltro. Nonché grande giocatore di tennis, no? Come ha sottolineato il signor Santoro l'altro giorno. Il signor Mike, li chiamano Mike. Ah, Mike lo chiamano, sì, Mike. Michele Santoro ha detto Mike, che ha fatto un risultato clamoroso ieri. Beh sì, 12%. Ieri abbiamo segnato l'anno zero della televisione italiana, lo sai, no? Se non esagerare. È stato il Big Bang della televisione. Titoli. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3. Di Bersani. Terribile nubifragio si abbatte su Genova, fiumi esondati, quartieri allagati, almeno 7 le vittime, 3 i bambini. Il sindaco Vincenzi, tragedia imprevedibile, blackout elettrici, collegamenti telefonici interrotti, sul web le drammatiche immagini di una città in ginocchio. Genova si prepara a vivere un'altra lunga notte, la gente rifugiata ai piani alti, domani e lunedì scuole chiuse e domani attese nuove piogge. Sui conti dell'Italia l'occhio del Fondo Monetario vigilerà sul rispetto degli impegni presi, in arrivo anche gli ispettori di Bruxelles. Berlusconi, misure entro il mese, chi lascia la maggioranza tradisce il paese, ristoranti e aerei pieni, la crisi non c'è, Bersani è ospite del TG3. Napolitano verso l'Italia, grave crisi di fiducia, non possiamo dare segni di scarsa affidabilità, impegni ancora troppo generici. Ieri sera il debutto della trasmissione di Michele Santoro Servizio Pubblico sul satellite e su decine di emittenti private. Buon di ascolti. Con lavorare. Onorevole, onorevole Stracquadagno. Scusa, scusa. Onorevole Stracquadagno. La pianti con quella telecamera. Onorevole Stracquadagno. La pianti con questa telecamera. Onorevole, le storco il braccio come ha fatto lei. No, mi sta rompendo i coglioni. Stiamo lavorando. Sta violando. È un membro del Parlamento ed è visibilmente nervoso. No, io sono, mi avete rotto i coglioni. Ma chi le ha detto nulla? Scusa, Luca, chi le ha detto nulla? Che cazzo, non si può neanche andare a mangiare fuori in questa città di merda. Ma perché vi arrabbiate così tanto? Sì, quel coglione con la barba che lavora con quel coglione di Formigli. Ma perché vi arrabbiate? Esatto. Capisco che siete nervosetti in questo momento. Lei la pianti di rompermi i coglioni! Non andare finché il gallo che canta non ci mitico! Mitico! Cosa ridi? No, perché voglio dire... Però a un certo punto ha sbagliato, ma uno si può anche scocciare di essere rincorso dalla mattina alla sera. Ma perché Rinco? Ma è un personale ragione, no, collega, ragione, il ragione. Grande collega di Piazza Pulita. Hai ragione, uno può dire tranquillamente, non voglio parlare, punto e basta. Ma sì, non però scusami, parlare. Non hai mandato la seconda parte. Aspetta un attimo, che sei? La parte migliore. Che sei? Sei un attimo solo, dai, via. Sei il maestro della radio, vuoi tenere la gente attesa per la sorpresa, ti sei sentite. Un maestro sentite. Maestro Cruciani. Il suo operatore non la mi riprende. Lascia libero di no, parlare. Ripreso, non stava ascoltando. Non voglio essere ripreso, ho diritto alla mia immagine. Non faccio il parlamentare, nessuno la riprende. Lei non mi lascia nessuno libero di andare in giro. Lei può andare dove le pare. Lei deve piantarmela di piastri puntani. Stracquadagno chiederà una legge perché questi teppisti. Invece di pensare al paese, pensate alle leggi, vi ridete. Penso ai teppisti che siete. State pensando al paese, alla deriva, e voi pensate ai giornalisti. Senta, la deve piantare. Di darmi fastidio. Io non le sto dando fastidio. Lei si trova in luogo pubblico come me. Grazie Stracquadagno. Grazie. Grazie. Che c'è? Che ridi? Non c'è altro. Chiamo la polizia. Non c'è altro commento se non la risata. Chiama i carabinieri, Piazza Pulita, a un certo punto. Che okay. Mandatemi il terzo, su, mandatemi tutto, tutto voglio sentire. Sì, no, quello dell'albergo è bellissimo. Qui mi sta molestando, d'accordo. Buongiorno, sono l'onorevole Stracquadagno. Buonasera. Vorrei denunciare delle molestie che sto subendo da degli operatori televisivi. Sono davanti all'hotel Hasler. Sono l'onorevole Stracquadagno, deputato della Repubblica Italiana. E mentre mi trovo a fare i fatti miei dentro un albergo, c'è un signore armato di una telecamera che mi molesta e pretende di riprendermi. Adesso glielo do. Piazza Trinità dei Monti 6. Poi intendo denunciare questi signori per molestie. Commissariato Stracquadagno. Grazie, grazie mille, grazie. Adesso lei di solito è così disponibile. Ragazzo mio, vedi un attimo. Ma che gli è preso? Che gli è preso? No, ma ti immagini. Ma poi non si rende conto, parte, non dice, chi? Guarda che nessuno lo voleva sapere. Chi ha detto chi? Stracquadagno, guadagno un cazzo, io sono poliziotto. No, sono l'uomo, io immagino che è venuto così. No, non credo che sì, lui ha detto pronto. Ma poi chi ha chiamato al volo? Poi non ho capito chi ha chiamato al volo. Ma no, l'ha ripetuto due volte, il vero testo. Vabbè, ma adesso lasciamo bene, adesso sì. Siamo... Sono l'onorevole Stracquadagno, non Stracquadagno un cazzo, sono poliziotto, guadagno 1.000 euro al mese. Ha riattaccato, sicuro che è andata così? Sicuro, ancora, sicuro. Ancora? Io le ho detto che non voglio parlare, cioè, lei mi riprende. Posso essere libero di andare a scopare con qualcuno senza che lei mi riprenda qui? Non sono venuto per questo. E lei invece non me lo sta impedendo. Io. E allora cosa mi riprende? L'ho trovata qui, è normale che vuole che non le faccia una le domanda. Ho chiesto. Lei ha rispostamente detto non voglio... Lui solo ha fatto due immagini per questa e lei quelle immagini non le manda in onda, le cancella. Sta dicendo onorevole, non lei cancella, lei ma allora manda in onda questo. Lei è un esponente. Allora mandi in onda questo. Manda in onda tu. Ma mi devo mettere nudo? Se vuole mi metto nudo. Ma no, cioè se la scena che lei vuole no. vedere. Onorevole no. Se vuole vedermi in mutande. No, non ho problemi. Vediamo se lei mi manda in onda se mi mette in mutande. Vediamo? Alla grande. Vediamo? Però devo non era mettere questo in mutande. Non era questo. No, perché avete sta, siete voi ieri, si vuole non mettere in mutande. Gli italiani ma ci stanno in mutande. Avete rotto i coglioni. Avete rotto i coglioni. Gallo camperà. È numero uno nel senso che è totalmente perde talmente il controllo che non si rende conto che poi tutto questo andrà in onda, eccetera, eccetera. Certo. Posso scopare liberamente? Sì, certo. Poi non è che uno ha diritto a non essere ripreso. Uno fa il parlamentare, sta per strada, è normale che qualcuno lo riprenda. Insomma, certo, non esagero. Io voglio bene a Stracquadagno, però ha sbagliato, un eccesso di ira, una follia assoluta. poi è finale con la telecamera spaccata. E secondo me questo qua bisogna mandarlo di continuo, però. Secondo me la parte migliore è quando telefona al poliziotto e dice sono Straguadagno, e lui fai solo risentire quello, perché davvero è andata così. Lui dice chi? L'onorevole Straguadagno. Ma Straguadagno, non Straguadagno. Spacca la telecamera. Poliziotto, 1000 euro al mese. Questo non è giornalismo. Se io le vengo in casa sua a rompere il cazzo. Ma non è casa sua, onorevole. Qui dormo io, capito? Io stanotte dormo qui. Ho capito, ma non mica sono venuto a bussarle in camera. Porca troia, ma lei mica sulla porta di casa mi ha Straguadagno. No, no, va bene, aspettiamo la polizia. Io da lei, veramente me l'aspettavo da chiunque, ma non da lei. Lei meritava che io le spezzassi il braccio. E anche al suo collega. Addirittura. Quella c'è. Il partito dell'amore, il partito dell'amore non mi rompa i coglioni. Ancora così. Non mi rompa i coglioni. Avete rotto i coglioni. Cioè, ma lei, secondo lei, non, noi non io devo essere libero di circolare senza che voi mi imputiate. E io non mi sono lei è venuto addosso all'operatore. Lei è venuto addosso all'operatore. Io, siccome gli piacevo, gli sono andato, mi sono messo davanti perché gli piaccio molto. Dai, Straguadagno. Lo aiuto nelle Straguadagno. Lo devo rompere. Straguadagno. Straguadagno. Straguadagno. Straguadagno. Straguadagno. Straguadagno. Che cazzo? Ma che cazzo sta a fare? Straguadagno. È il pezzo più bello del, a caricare, è il pezzo più bello, è il pezzo più bello dell'ultimo anno, credo, dell'ultimo anno, forse degli ultimi 5, forse degli ultimi 5. Sono io incerto. Lo manderei proprio in loop anche in prima, al posto del 3 gioia di Minzolini, manderei solo questo io pure, solo questo, solo questo. Vedrai che ascolti, altro che TG5, altro che lotta con Mimune. Perché diamo un consiglio a Minzolini, diamo un consiglio a Minzolini. Caro Augusto, caro Augusto manda questo video, integrale, integrale, senza nessuna censura, senza nulla, dalle 20 alle 20.05, 20.06. No, dalle 20 in loop, dalle 20 alle 20.30. No, adesso non esageriamo. Dalle 20, quelle, no, beh. La prima cosa, senza fare titoli, senza nulla, sì, solamente sì. Questa scena, 7 minuti, poi ascolti, boom, di ascolti, boom, cioè, altro, altro che la 7, Mentana, Mimun, no, eccetera. No, ma vuol dire, in questo caso, se uno facesse questa scelta, caso. Se uno facesse questa scelta. C'è un'altra impresa di un deputato, un nostro caro amico, il signor Crosetto, che secondo Guido. Quanto riferisce la 7, secondo quanto riferisce la giornalista interessata che si chiama Antonella Rampino della Stampa, avrebbe detto durante una pausa, purtroppo non si sente, ma forse abbiamo l'introduzione quando lei va via, no, nemmeno quello, vabbè, forse dopo lo mandiamo in onda, avrebbe detto non ti spoglierebbe nessuno, non ti spoglierebbe nessuno. L'ottima Sardoni gli ha gestito questo match con... Io l'avrei mandato in onda, però scusa, immagino, certo, anch'io, ovvio. Però è un fuori onda, non si può. No, come non si può? Chi l'ha detto che non si può? Vabbè, comunque, in onda anche fuori onda. Dove andiamo? Alessandro da Milano, 800 24 00 24. Alessandro, dica. Sì, buonasera. Dica. Senti, io volevo parlare del discorso di Versace di prima. Al signore l'abbiamo eletto insieme a quegli altri, cioè alla fine è inutile che poi alla fine si tira da parte dicendo quello là non ha fatto quello che doveva fare, non l'ha fatto nemmeno lui. Cioè? No. Cioè lui ha elencato un sacco di cose che non sono state fatte nel governo. E lui ha provato a fare magari. E lui doveva fare. Secondo quello che pensa Storace, Versace, diciamo lui sarebbe stato disposto a fare, non è che lui che tiene le redini, tant'è che non gli hanno dato nessun incarico e lui si arrabbia anche per questo, no? In parte. Comunque. Certo, però comunque fa parte di tutti insieme. Se abbiamo letto tutti, c'è. Sì, no, ho capito, però non è che tutti hanno la stessa responsabilità. C'è chi è in Parlamento, c'è chi ha il governo, chi fa il ministro e chi fa il deputato, punto. Però Alessandro, è facile quando gli altri non fanno poi il lavoro. Darsi, ma lei infatti, ma lei per carità, ha tutto il diritto di criticare Versace, perché dice in due anni anche lui non ha fatto poco e non può tirarsi fuori, per carità, è una critica anche legittima. La ringrazio. Massimo Massa Carrara. Ah, buonasera, grazie. Dica. Senta, io ho chiamato perché ho sentito dai titoli, avevo già sentito dai titoli del TG3, del fatto che il nostro Presidente del Consiglio parlava dei ristoranti pieni. No, dice, ma la crisi non c'è perché i ristoranti sono pieni, una cosa del genere, credo di aver capito. Però c'è un piccolo problema, questo è un principio d'economia, che al ristorante ci va il 20-30% della popolazione. Lui avrebbe ragione se tutti a rotazione andassero almeno una volta al ristorante, una volta alla settimana. Guardi, allora il problema non si pone, perché la questione è diversa. Non è che siamo in crisi perché i ristoranti sono... Esatto, è una delle conseguenze della crisi è che i ristoranti sono meno pieni. Probabilmente sono anche meno pieni rispetto a quello che può vedere Berlusconi. Ma il punto non è quello, è la crisi di credibilità che ha l'Italia per una serie di ragioni che sono anche antiche. Grazie, abbiamo la borsa, torniamo subito. Facciamo risentire qualcosa dopo, no? Che dici? Sì. No, Straguadagno, riprendi subito da Straguadagno. Sì, bisogna subito riprendere da Straguadagno. Mi dà una carica pazzesca. E siamo qui alle 19.35 con la Zanzara, 800 24 00 24, e non possiamo che riprendere con mettete quello che volete, tanto è lo stesso, no? È lo stesso. Quale quello volete? Quando quale dice vuoi? Scopare qui in albergo, ti prego, perché sono depresso oggi. Io le ho detto che non voglio parlare, cioè, lei mi riprende. Posso essere libero di andare a scopare con qualcuno senza che lei mi riprenda qui? Non sono venuto per questo. E lei invece me lo sta impedendo. E allora cosa mi riprende? L'ho trovata qui, è normale che vuole che non le faccia una domanda. Le ho chiesto. Le ho rispostamente detto, non voglio. Lui solo ha fatto due immagini del testa. E lei quelle immagini non le manda in onda, le cancella. Sta dicendo, onorevole, lei cancella, ma allora mandi in onda questo. Allora mandi in onda questo. Ma mi devo mettere nudo? Se vuole mi metto nudo. Cioè, se la scena che lei vuole vedere. Onorevole, no. Se vuole vedermi in mutande. No, non ho problemi. Vediamo se lei mi manda in onda se mi mette in mutande. Vediamo? Alla grande. Vediamo? Mi devo mettere in mutande. Non era questo. No, perché avete, siete voi, se vuole mi metto in mutande. Italiani ci stanno in mutande. Avete rotto i coglioni. Avete rotto i coglioni. Ti carica molle, eh? Così mi carichi, mi raddrizzi il weekend se fai così. Mi raddrizzi il weekend. Mario da Como, 800 24 00 24. Buonasera. Mario, dica. Niente, volevo solo parlare un attimo con Palenzo, perché gli attacchi così che continua a fare, io ho sempre detto così. A chi li fa gli attacchi? Ma a tutti, ma attacchi futili. Ma a chi? A chi? Non ho capito. Ma a chiunque li fa, specialmente a Berlusconi o chi fa. Io ho sempre votato sinistra, però mi fa venire voglia di votare la destra a questo punto. Faccia quello che le piace così. Addirittura. Ma se le piace così. Cioè, se Parenzo riesce a mobilitare il voto, a far spostare il voto a un radioascoltatore, se le piace così. Vorrei che ci fossero pochi Parenzo. Ce n'è uno. Ma che le ha fatto Parenzo? Che le ha fatto? Ma niente, perché con quella sua aria strafottente che Ma scusi, davvero, risponda a questa semplice domanda. Gli piace così la situazione? Se gli piace così? No, non mi piace così, però dovremmo tutti darci una mano. Non darci una mano. Ma noi non dobbiamo dare una mano, dobbiamo fare una trasmissione radiofonica, è un po' diverso, Mario, non dobbiamo dare la mano a nessuno. Certo, ma io direi di fare una trasmissione radiofonica un po' diversa. Vabbè, ho capito, ma ci sono tante desiderata, come dire, nel mondo. Uno lei dice dovete fare una trasmissione radiofonica diversa, pazienza. E invece facciamo questa, abbia pazienza, Mario. L'abbracciamo molto forte, ma facciamo questa. Siamo qui con lei, ci dica quello che io vuole. Io vorrei andare in vacanza anche con lei. Sono poi che vuoi andare in vacanza con voglio tutti. Andare in vacanza con lui, con Verdini e con Cicchito. No, non con tutti. No, hai detto Cicchito, poi un altro di ieri sera, con chi voleva Verdini. Andare? No, con ieri sera con Apicella, con Apicella, anche con Apicella. Quando sento queste cose, voglio andare in vacanza a Natale, 15 giorni in un stalle di montagna dove c'è la neve e non puoi neanche uscire, stare in questa casa con Verdini, Cicchito, Apicella e questo ascoltatore. E Mario da Como. Mario, lei andrebbe in vacanza con Parenzo? No. In vacanza con la Belen ante infante. Beh, lei, questo vabbè. Lei è un porco, Mario, grazie. Scherzo, lo vede che si diverte pure lei, su, scherzo, non faccia quello che rompe i cosiddetti cabasisi, come si dice in siciliano. Cosa sono? I cabasisi, qui c'è un tecnico, il signor Pietro, che potrebbe spiegare cosa sono i cabasisi. Vincenzo da Milano, buonasera. Buonasera, dottor Parenzo. Io sono Cruciani, Parenzo è dall'altra parte. Perché Parenzo ultimamente sta facendo molto il protagonista più di lei con queste canzoncine simpatiche. È sempre molto divertente. Sì. Anche se io mi ricordo quando era ad Iceberg, lo trovo molto professionale, molto promettente. Forse sarà bravo per la prossima versione rumena del Kiko Kokuo, magari prenderà il posto. Vabbè, lei sta copiando sostanzialmente quello che ho detto io ogni giorno. Sta mettendo seriamente quello che io dico ogni giorno per scherzare. Ma per carità, è come sparare sulla Croce Rossa. Ascolti una. Ex mala bonum. Io la giro per il l'ho studiato, per cui cerchiamo di parlare più terra terra. Io sono un povero ragioniere, quindi ne capisce bene. Senta una cosa, velocissimamente. Mi sembra che stiamo andando in mano a un altro Scilipoti, cioè il buon straguadagno è peggio di Scilipoti a questo punto. Ma cioè, che vuol dire peggio di Scilipoti? Scusi. Ma sì, sono tutti dei pappagoni, tutte delle macchiette. Cioè dei pappagoni. Delle macchiette, ma sì, dai. Cioè, voglio dire, un politico non si può esprimere in questi modi così volgari. va bene tutto, va bene che gli ha rotto le scatole, capisco la privacy, ma un po' di contegno. Allora ha fatto bene Marco Travaglio quella volta che l'anno zero l'ha preso per i fondelli. Ci vorrebbe sempre un Travaglio ogni volta che sta guadagno parla. Ci divertiamo un po' tutti. Va bene, e Vincenzo, quindi, grazie. Andiamo a sentire Antonella Rampino, giornalista della Stampa, con alle prese con Crosetto questa mattina a Omnibus. Detto questo, io volevo ringraziare la trasmissione. Come sapete, voi che siete in studio, io sono stata pesantemente insultata da Crosetto e da Pace nei fuori onda, e quindi io non ho la tranquillità per dire nulla e per continuare questo dibattito. Non è una cosa contro nessuno. Finché il centrodestra non accetterà le critiche, sia pure espresse in maniera polemica, senza insultare, io non parteciperò. Però loro sono, hanno insultato nel fuori onda, però era nel corso di una discussione. Io sono vicino a delle persone che mi insultano. Sapendo, c'era sì, una sei ridicola. Quello che Crosetto ha detto, tu lo sai. Ma sei ridicola, insomma. Ma cosa questo mi dispiace. Sì, posso cosa ripetere? C'hai dei comportamenti che sono assolutamente nevrosi, pazzoidi. Non ho capito cosa gli ho detto io, ma nel fuori onda prima io non c'ero. E vabbè, questa è la parte conclusiva di Omnibus di questa mattina. Mi ha detto urlando, riferisce la signora Rampino, giornalista della Stampa, riferendosi a Pace, alla Franco Pace, che è una stupida, una pazza e una poveretta, anche a microfoni aperti, ma quello l'avete appena sentito. Invece Crosetto, stupida, pazza e poveretta, sì, questo nella naturalmente perché diceva certe cose, non in assoluto. Sì, vabbè, ma sì, non sto giudicando, sto semplicemente stupida, pazza, sai, poveretta, sì. È anche pazzoide, nevrotica, come abbiamo sentito prima, invece in diretta. Invece il signor Crosetto le avrebbe detto: a te non ti spoglierebbe nessuno, insomma. Un battuto un po' maschilista. Sì, vabbè. Gaspare Bergamo, buonasera. Buonasera, sono Gaspare. Sì. Intanto 1000 parenze. Vabbè, anch'io dico 100.000 parenze, però questo è scontato. Non voglio diventare oggetto della sua telefonata. Allora, con Versace voi avete cercato di delineare il personaggio sotto il profilo psicologico, sto parlando dell'innominabile. Vi siete però dimenticati di mandare un altro pezzo che il Berlusconi, e lo nomino adesso, ha detto oggi, che praticamente al suo posto al G20 non vedrebbe nessuno. Adesso lo facciamo sentire subito, guarda, ecco, seduto al G20 pensavo nessuno al posto mio qui. Sentiamo. Non vedo nessuno. Ecco, ma la risposta l'ha data Versace prima, quando dice, quando ha citato una frase di Clemenceau, sul cimitero degli elefanti. Il cimitero è pieno di indispensabili. Sì, così. Sì, comunque, sì, sentiamo, sì. Berlusconi. Seduto al tavolo del G20, a un certo punto mi sono domandato: ma chi qui potrebbe rappresentare l'Italia ove non ci fossi io? E francamente il panorama che oggi l'Italia presenta tra i protagonisti della politica non mi ha indicato un personaggio che potrebbe rappresentare degnamente l'Italia in queste sessioni. È così, che voleva dire su questo? Gaspare, che voleva dire su questo? Sembra un quadro ben delineato. Questo qui si sente l'onnipotente. Qual è il quadro delineato? Se lo sa lei. Sceso in terra. Ma Berlusconi non è la prima volta che dice. È la brutta coppia di Gesù Cristo, circondato non da una mantalena ma da diverse. Comunque, un'ultima cosa, posso? Lei può dire quello che vuole. Io ho due figli universitari, ok? Sono molto preoccupato per il loro futuro. Lei di quello sciame di manifestanti che ha visto a Roma qualche settimana fa, sì. Ecco, si immagina questi ragazzi che riempiono i ristoranti, i voli low cost, sì, eccetera? Questo perché sì. Voglio dire, questo sì, assolutamente sì. È un problema quello di dire che i ristoranti sono sempre pieni. No, secondo me quelli li prendono come gli aerei, a voglia. I ristoranti li riempiono alla grandissima. Io perché è low cost, chiaramente, però. Voglio dire, ma qual è il problema? Il problema non è mica i ristoranti pieni o vuoti, cioè nessuno dice che la gente non può andare al ristorante, non è quello il punto. Io parlo con delle persone qui in quartiere che guadagnano 1000 euro al mese e che non vanno in vacanza da anni, anni, certo, anni. Questo è vero. Quindi questo signore, secondo me, sì, non ha il conto della situazione, è come se vivesse sulla luna. Capito. Va bene, grazie, grazie. Buonasera. Grazie Gaspari. Gaspari. Mi è venuto in mente Gaspari, non so, Remo Gaspari. O De Gasperi anche. O De Gasperi, sì. Siamo qui la Zanzara 800 24 00 24, in collegamento con Giancarlo Pittelli. Buonasera. Buonasera a lei. Come sta? Beh, molto bene, grazie. Allora, Giancarlo Pittelli, per chi non lo conoscesse, è deputato che fino a settembre nel PDL, poi passare al gruppo misto, e insomma è uno dei firmatari della lettera dell'altro giorno pubblicata sul Corriere della Sera, in cui si chiede sostanzialmente a Berlusconi di farsi da parte, cioè di aprire una nuova fase politica, allargare l'UDC, allargare la maggioranza, eccetera eccetera. Tutti che scrivono lettere. Ma non, no, scrivete, fate cosa scrivete. Beh, infatti per questo chiamiamo Pittelli, per capire, per capire che cosa vuole fare. Allora, Pittelli è stato per tanti anni, anzi è ancora, un uomo forte del centrodestra in Calabria, avvocato di Catanzaro, eccetera eccetera. Pittelli, la settimana prossima, se ci sarà, perché ancora non è certo, perché tutto è possibile, se ci sarà un voto di fiducia sul governo Berlusconi, chiesto da Berlusconi, lei cosa farà? Il voto di fiducia, bisogna vedere su che cosa verterà la fiducia che sarà chiesta a Berlusconi. Diciamo anche io so di una fiducia che dovrebbe essere chiesta sul documento di bilancio, quello che è stato inopinatamente bocciato qualche tempo fa. Ma quel rendiconto, dice lei? Certo, quello sono due robe diverse. Son cose diverse, sul conto e rendiconto. Ma sul rendiconto mica si può mettere la fiducia, Pittelli? No, ma su quello non c'è dubbio che ci sarà il nostro voto. Sì. Per quanto lei il rendiconto lo voterà sicuramente. Certamente, come ho votato anche l'altra volta. L'altra volta. Se dovesse venire fuori il documento che è stato sollecitato dall'Europa e redatto, valuterò i contenuti, perché ancora non ne conosciamo nella loro interezza tutti i contenuti, quindi voglio vedere in che cosa consiste la risposta che noi diamo all'Unione Europea. Però se Berlusconi viene in aula chiedendo la fiducia su un documento per andare avanti eccetera, lei questa fiducia gliela dà sì o no? Qui non è il problema di cosa presenta, lei lo sa. No, il problema non è molto così semplice come lei lo pone, sì o no, non è un problema. Il problema prima di tutto è di contenuti, primo. Secondo, vorrei chiarire immediatamente che il contenuto della lettera non può essere equivocato. Noi abbiamo chiesto a Berlusconi, con tutto il rispetto che gli portiamo e gli dobbiamo, di procedere ad un allargamento della maggioranza, perché abbiamo assistito negli ultimi mesi al mercato parlamentare. In che senso, come al mercato? In che senso? In che senso al mercato parlamentare? Dire mercato, però? Alla ricerca di una maggioranza, cercando di contattare deputati, di acquisirne degli altri, Ma Verdini in queste ore ha parlato anche con lei? Mi risulta di sì, Pittelli, sì. No? Il signor Verdini, che è quello che tiene le file, ha parlato anche con lei? Assolutamente no. Ma mi dicono che lei ha parlato con Verdini anche ieri, adesso lei dice di no. Guardi, io con Verdini ci parlo anche ogni giorno. Appunto, ma non ho parlato di questioni legate alla fiducia, ho parlato di una questione addirittura personale, quindi si immagini. Cioè, adesso lei parla con Verdini che lei ha detto. È un po' strano, no? Le potrà sembrare strano. Non avete parlato della fiducia, vabbè. Avete parlato del tempo. No, non ho parlato del tempo, io faccio anche l'avvocato, quindi. Per carità. Ho parlato di questioni essenzialmente personali, nulla di più, non avrei motivo di dirle cosa diversa. Scusi Pittelli, il tempo di girare intorno. No, ai appunto, problemi. Siccome lei dice le cose non sono così semplici, è vero, spesso ci sono incertezze, dipende quello che presenta Berlusconi in aula, però diciamo la verità. Lei pensa o no che Berlusconi ha chiuso un periodo? Insomma, pensa o no che Berlusconi debba farsi da parte? Questo me lo dica chiaramente. Io lo penso con estrema serietà e con estrema sincerità, le dico di sì. Cioè Berlusconi dovrebbe dimettersi. Io ho detto semplicemente, mi faccia dire con molta chiarezza, non ho reticenze di nessun tipo. Io ho detto, se il presidente, vista la situazione drammatica in cui il paese versa, ma non solo e non tanto per gli aspetti legati all'economia e alle finanze, ma per la situazione obiettiva del paese, che se è di ostacolo il presidente Berlusconi ad un allargamento della maggioranza che possa condurre a riforme condivise il più possibile, e lei lo pensa. Berlusconi dovrebbe solo e semplicemente indicare un suo successore, perché a quanto stiamo vedendo costituisce un ostacolo per l'ampliamento di una maggioranza della quale abbiamo bisogno. Allora Pittelli, lei dice Berlusconi è un ostacolo all'ampliamento della maggioranza e all'attuazione di certe riforme, si faccia da parte, giusto? Certo, allora, indicando lui indicando il successore, adesso non è che può indicare, non voterà la fiducia. Dunque lei non voterà, se ci sarà una fiducia non la voterà. Non ho detto questo, io ho detto la logica porta a questo. No, guardi, sono due piani diversi, io ho detto sì, ma quello per le fumisterie della politica. Io valuterò i contenuti della proposta che verrà portata all'attenzione del Parlamento. Punto. Nel contempo sono perfettamente convinto, ma non sono solo io a pensarla così, perché ci sono autorevoli firme del giornalismo italiano che oggi hanno reso una situazione obiettiva in cui il paese versa, che non è più tempo di rimanere attaccati alla conduzione di un governo perché si è di ostacolo a un progresso sociale del governo. Del governo. Progresso sociale del governo, del paese. Un attimo solo, Pittelli, abbiamo 30 secondi, torniamo subito. La Zanzara. Eccoci, allora siamo con Giancarlo Pittelli, ormai ex PDL, lo possiamo dire, già a settembre è passato al gruppo misto, avvocato calabrese, una volta leggo da un'agenzia addirittura tempo fa in aula diede, in un'aula di tribunale o comunque nei corridoi di un tribunale diede una testata a un suo collega. Non ho dato nessuna testata, ho preso letteralmente a schiaffi una persona, un momento, non facciamo scadere la cosa su questi livelli personali. Ma no, ma stavo scherzando, Vittorio, sono arrabbi. Estremamente gravi. Sì, ma no, ma non si arrabbi. No, per carità, io sono una delle persone più mansuete del mondo. Credo. No, per carità, voglio aggiungere che il mio dissenso rispetto all'andazzo e anche alle condotte del governo Berlusconi, al modo di gestire di Berlusconi, deriva anche da alcune affermazioni che io ho reso nel lontano 2008, ancora di formazione di Gubbio, in cui lamentavo il disastro compiuto nei confronti della mia terra, che è una terra devastata e soprattutto devastata dalla politica. Questo mio atto di denuncia diverso tempo fa è rimasto completamente inascoltato. Scusi, nonostante le rassicurazioni che io avevo avuto sulla Calabria. Scusi Pittelli, le chiedo una cosa però, io credo che chi ci ascolta, ma anch'io non ho capito, cioè quando uno decide, Berlusconi non è più in grado di portare avanti il governo, di portare avanti, questo lei lo pensa, no? Questo non c'è dubbio. Dovrebbe dimettersi, dovrebbe fare strada d'altra, una soluzione più allargata, forse un governo istituzionale, dovrebbe indicare lui, d'accordo, insomma un altro governo ci vorrebbe, mi sembra che lei dica questo. Allora, la conseguenza immediata di questo ragionamento è che se martedì, mercoledì, quando sarà Berlusconi, se viene in Parlamento con un voto e chiede il voto di fiducia, lei questo voto di fiducia non glielo dà. Io non so ancora su che cosa. Beh, su qualsiasi cosa. Se non, lei è un problema, non è un problema personale nei confronti del presidente Berlusconi. A parte il fatto che votare la fiducia sul documento economico richiesto all'Europa sarebbe un atto di grandissima responsabilità, io le sto facendo capire che non escludo di votare la fiducia su questo documento, che è un fatto emergenziale, ma con ciò vuol dire che io non condivido affatto la conduzione del governo e la linea del governo. Vabbè, comunque, lei dice potrebbe votare la fiducia su un provvedimento economico voluto dall'Europa, diciamo, però chiedo lo stesso a Berlusconi di dimettersi, questa è la sostanza. Guardi, io chiedo a Berlusconi di fare un passo indietro se questo può agevolare una normalizzazione del paese. Ho capito, ma secondo lei, lei non può dire se, cioè, chiede a Berlusconi un passo indietro, punto. Cioè, ma abbiamo scritto una lettera, ma il contenuto della lettera, lei l'ha citato all'inizio. Ma certo, l'ho letto. Mi pare che sia molto chiaro. Beh, insomma, adesso chiaro per i cittadini, penso che sia una cosa un po' vaga, adesso chiaro non esageriamo. È un linguaggio da palazzo, chiaro, ma chiaro per noi che leggiamo di politica. Non ho sentito l'affermazione del dottor Parenzo. No, ho detto semplicemente con rispetto che è un linguaggio di palazzo, nel senso che è un linguaggio come che è del sottotesto. Il sottotesto politico è esplicitato dal direttorissimo Cruciani, mi pare evidente, cioè come possono realizzarsi quelle condizioni che voi in questa fumisteria, in questo fumo politico alto e nobile, questo linguaggio barocco della politica, come si fanno a realizzare quelle condizioni? Io sono pronto a scommettere 10 euro con lei, facciamo anche 100 euro con lei, facciamo anche 1000 euro con lei, che quelle condizioni difficilmente Pittelli, io voglio capire una cosa. Berlusconi è alla fine, è alla frutta? Ma io non userei questa non userebbe questa, questa terminologia. Berlusconi è e rimane un grandissimo leader. Vabbè, d'accordo, quello lo sappiamo. Io penso che il percorso politico in queste condizioni sia non più sostenibile. Questo è molto semplice. Se poi noi pensiamo, non possiamo continuare a galleggiare, come dice giustamente oggi Paolo Mieli, non possiamo continuare ad annaspare, abbiamo bisogno di certezze. E di che c'è bisogno? Abbiamo bisogno di un governo solido che faccia delle riforme adeguate alla condizione. Per esempio, di chi c'è bisogno? Di chi c'è bisogno? Mi dica un nome. Ma guardi, non lo so, un governo Letta, come è stato proposto da tanti, un autorevolissimo esponente dello stesso centro. Ma lei farà parte di questo gruppo parlamentare nuovo che si verrà a formare forse la settimana prossima, chiamato dei riformisti con Giustina Destro, eccetera? Farà parte di questo gruppo? Non abbiamo ancora deciso. Non ancora deciso, nulla è deciso. Cioè, lei non ha deciso né se appartiene al nuovo gruppo, né se voterà la fiducia a Berlusconi. Bah. Un attimo di pausa perché abbiamo la pubblicità. 800 24 00 24. La pianti con questa telecamera. Le storco il braccio come ha fatto lei. No, mi sta rompendo i coglioni. Stiamo lavorando. Sta violando. È un membro del Parlamento ed è visibilmente nervoso. No, io sono mi avete rotto i coglioni. Chi le ha detto nulla? Luca, chi le ha detto nulla? E che cazzo, non si può neanche andare a mangiare fuori in questa città di merda. Ma perché vi arrabbiate così tanto? Sì, quel coglione con la barba che lavora con quel coglione di Formigli. Ma perché vi arrabbiate? Esatto. Capisco che siete nervosetti in questo momento. Lei la pianti di rompermi i coglioni. Giorgio Stracquadagno alle prese con un cronista di Piazza Pulita. La frase più bella secondo me, quando dice non si può neanche andare a mangiare in pazzi in questa città di merda. Ma come andare a mangiare sì, in pazzi? Sì, poi la città di merda poi. Ma perché insulta Alemanno? No, che c'entra Alemanno? Roma, no Alemanno, non è che Alemanno. Allora sta girando sul Financial Times, anzi come no, dire? Non leggo il Financial Times. No, lo so, ma neanche io lo leggo, però non ho tempo, ogni tanto leggo così i sunti di qualcosa. E secondo il Financial Times, Tremonti avrebbe detto a Berlusconi: se non ti dimetti da lunedì le borse sarà un disastro. Beh, capito? Il Financial Times è autorevole, però. Così dice, così so. Beh, non è che questi giornali americani, questi Wall Street Journal, roba, non è che scrivono minchiate, cioè questa è gente seria, gente che controlla, gente che verifica, cioè, insomma, prima di scrivere una roba. Non è giornale bubù. No, ma che c'è? Non è bubù. Non è bubù. Dice l'ha detto il giornale bubù della Gazzetta di chi? No, allora, Times, comunque. Ripeto a tutti la notizia. La frase sta rimbalzando di Twitter in Twitter in un crescendo cinguettio dopo cinguettio, secondo quanto riferito dal blog del Financial Times che sta seguendo in diretta i lavori del G20, il ministro dell'economia Tremonti avrebbe detto al Premier: lunedì sarà un disastro sui mercati. Grazie ai mercati, se tu Silvio resti, a torto o a ragione, il Premier per i mercati e per l'Europa sei tu. Questo avrebbe detto Tremonti a Berlusconi secondo il Financial Times. Giancarlo Pittelli, ha ragione Tremonti? Guardi, di Tremonti... Cioè il problema momento... è Berlusconi? No, io non penso, io penso che il problema sia stato proprio Tremonti, perché fino a qualche tempo fa Tremonti è venuto alle riunioni del partito e alle riunioni in Parlamento affermando che i conti dell'Italia erano completamente a posto, che non c'era nessun timore per il nostro paese, che non eravamo a livello della Grecia. Non è la prima volta che Tremonti dice a Berlusconi che il problema è Berlusconi. Io penso che forse se Berlusconi avesse capito prima che il problema vero era Tremonti, forse non saremmo arrivati neanche a questo livello. Cioè avrebbe dovuto far fuori Tremonti prima, insomma. È probabile, da come si sta comportando con questo tipo di responsabilità mi pare che proprio sarebbe stata la cosa migliore. Senta Pittelli, però mi dico una cosa, se la pensa naturalmente. Certo, non abbia dubbi. Mai più con Berlusconi, cioè mai più con Berlusconi, mai più un governo a guida Berlusconi. Cioè questo ma guardi, questa lei me lo vuole fare dire a tutti i costi. No, io non la è che no, perfettamente. No, è che mi sembra la conseguenza di quello che lei ha detto. Io vorrei che la politica è un'altra cosa. Il problema di fondo è uno: se Berlusconi, quello che lei vuole sapere in fondo, se Berlusconi, come ha dichiarato e chiesto Napolitano, porta il pacchetto pacchetto sollecitato dall'Europa, probabilmente io lo voto, le dico sì, se, perché sarebbe un atto di enorme irresponsabilità non votarlo in una situazione. Ah, ho capito. Dunque, se Berlusconi porta un pacchetto di riforme, un pacchetto di provvedimenti in Parlamento, lei vota anche se c'è la fiducia? Sì, anche se c'è la fiducia, perché in questo momento sarebbe da irresponsabili non votare questo tipo di norme. Il problema però si propone il giorno dopo, un minuto dopo. Il problema non è la soluzione della fiducia, è riduttivo porlo in questi termini. Il problema è che in Parlamento non c'è una maggioranza che consente di andare avanti. E Berlusconi è in grado di allargarla. Il giorno dopo la fiducia. Bene. Sì. È in grado di allargarla Berlusconi questa maggioranza? Potrebbe essere in grado di allargarla, se fa degli sforzi per allargarla, perché no? Che stia Berlusconi. Vede, lei prima mi ha chiesto, io poi ci ho ripensato alla sua domanda in questo piccolo intermezzo che c'è stato. Piccolo, lei mi ha chiesto se avessi parlato con Verdini. Sì. Ovviamente lei voleva sapere se Verdini mi aveva proposto qualcosa. No, ha proposto qualcosa. Allora, se ci ha parlato per convincerla a votare la fiducia a Berlusconi o comunque a non votare contro Berlusconi, punto. Verdini mi conosce molto bene. Un lavoro politico, non è mica un crimine. Lo so, assolutamente. Vede, Verdini mi conosce molto bene, sa quella è la mia impostazione, prima di tutto etica e poi politica. Verdini sa perfettamente che davanti a un momento di responsabilità che dovesse insorgere, come potrebbe insorgere per la fiducia, io privilegerei sicuramente un atteggiamento di responsabilità. Il problema sia pur certo che Verdini sa perfettamente come gestire i deputati e come approcciare. Sì, allora? È ovvio che questo, voglio che sia estremamente chiaro, me ne dà l'occasione, che a me non si può proporre assolutamente nulla di diverso se non un fatto politico. Ho capito. Le ripeto, il giorno dopo la fiducia, così come è stato il 14 di ottobre, si apre un problema di numeri. Che evidenzia ancora una volta qual è la crisi del sistema. Benissimo, ma lei può rientrare nel PDL? Potrebbe rientrare nel PDL? Ma guardi, tutto può accadere. Io in questo momento glielo escludo con grandissima lealtà. E il gruppo, nuovo, quante possibilità di formarsi? PDL, in questo PDL che ha condizionato gravemente le sorti della mia regione, in una terra in cui vivo, mai. Mai, in questo PDL no. Mai. In questo PDL mai. Chi è che ha sbagliato in questo PDL? Ognuno ha sbagliato per la propria parte. Evidentemente ha sbagliato anche chi non ha inteso rappresentare al presidente Berlusconi le drammaticità di una regione che più delle altre soffre. Qui, secondo me, Parenzo, se lo dico con tutto rispetto per l'onorevole Pittelli, per carità, sono tutte cose assolutamente legittime, però mi sembra che ci sia un misto di situazioni personali, locali, eccetera. Legittime politiche però, di rancori. Di rancori, anche. Per carità. Pubblicità, parte, Pittelli, io vi invito a ritornare sull'argomento quando alcune questioni di ordine giudiziario verranno fuori anche in Calabria. In che senso? No, che ha detto? In che senso? Verranno fuori delle questioni di ordine giudiziario? Quello che leggo sui giornali, e soprattutto sui giornali, non solo i giornali nazionali, ma anche i giornali locali, la situazione calabrese è una situazione estremamente critica dal punto di vista della politica e delle commistioni della politica con i poteri criminali. Questa è notizia. Sono fermato. In che senso? Qui c'è notizia. Non si ferma, no? Adesso ci raccoglie, dice, perché questa è notizia. Ma io vi invito semplicemente a leggere quello che sta accadendo sui giornali della Liguria, sui giornali della Calabria, sui giornali della Lombardia, a proposito di collusioni o di movimenti strani della politica calabrese con la criminalità organizzata. Ma non dica politica calabrese, però, del PDL, non dica chi potrebbe essere calabrese. Coinvolto? Non sto parlando di PDL soltanto, sto parlando della condizione politica della Calabria. Ho capito, ma chi potrebbe essere coinvolto? Ma non ho la più pallida idea, non sono un investigatore. Certo è che leggendo, facciamo un'intervista a parte su questo, possiamo discutere delle gravi responsabilità che anche il PDL si è assunto in questa gestione della vita politica calabrese. Va bene Vitelli, grazie, ne riparleremo presto. A presto, grazie a lei, arrivederci. Vabbè, io non ho capito niente, Parenzo, da quello che ha detto l'onorevole Pittelli, detto con tutto il rispetto, cioè Berlusconi si deve fare da parte, però forse voterò la fiducia sui provvedimenti economici, il problema si pone un minuto dopo il voto di fiducia, e poi c'è questa cosa della Calabria gestita male dal PDL che non ho capito, state attenti alle inchieste e a quello che succede sui giornali liguri e calabresi. Segna, invece è proprio emblematico di questo momento, di questo, come dire, tutto cambia, tutto scorre, cioè loro sono pronti a bandecchia, è evidente, no? Sì, ho capito, ma qui ci sono un misto di rancori personali, lotte intestine, insoddisfazioni, eccetera, cioè di grandi, come dire, di grandi prospettive, di persone che, come dicono, ci vogliamo assumere la responsabilità nei confronti del paese, cioè qui non è che se ne vedono tanti, diciamo la verità, insomma, questa è... Ma io non posso che sottoscrivere, no, che ma quelli... cioè, no, ma... a me fanno ridere quelli là che dicono vogliamo il governo tecnico perché il governo tecnico può risolvere tutto, poi le riforme, a parte il governo tecnico, qualcuno che vota i provvedimenti in Parlamento ci vuole sempre, ma sui singoli capitoli, che siano le pensioni, che siano la questione dei licenziamenti, che siano le questioni della spesa pubblica, eccetera, ci sono pochissime persone in Italia a essere d'accordo, una minoranza, in particolare, diciamola in Parlamento, no, diciamola tutta, è che vuoi non dire? È così. Come non è così? Perché nessun governo politico vuole assumersi la responsabilità ma di fare le riforme. Ma tu ancora distingui tra governo politico e governo tecnico, ma sei rimasto indietro di 50 anni. Mi perdoni, professore. Il governo tecnico, ma il governo tecnico fatto da chi? Scusi, maestro, se tu hai un tecnico che come nel 92 onorevole dice, Crosetto, dica qualcosa a Parenzo, io non ne posso più con queste baggianate, non ne posso più. Stesso, il centro-sinistra stesso, qualora dovesse trovare la parte, Parenzo è impossibile affermare quando parla. Vabbè, no, adesso l'altro giorno l'ho visto alla camera, ho provato fisicamente a fermarlo. Ma no, ma qua ancora è convinto. Eravamo vicini, Crosetto, io e Brunetta. Ancora è convinto Parenzo che i governi tecnici nascano così, non so da dove, da maggioranze parlamentari variabili, è evidente. I governi tecnici sono sempre politici, poi bisogna che qualcuno voti alla Camera, al Senato i provvedimenti. Ma quindi certo, ci sono dei gruppi politici che li appoggiano. Senta, Crosetto, certo, ha sentito questa cosa che rivela il Financial Times, no? Ci crede o no che Berlusconi, che Tremonti avrebbe detto a Berlusconi: il problema sei tu, lunedì ricomincia la sarabanda se tu non ti dimetti? Ma era già uscito qualche giorno fa sui giornali italiani. Sì, no, ma durante il G20 avrebbe detto una cosa del genere. Tremonti a Premier, lascia o lunedì sarà il disastro. Se lo scrive il Paese, probabilmente è vero. Ce l'ha detto l'altro giorno in Consiglio dei Ministri. Cioè, l'ha detto davanti a lei? Scusi, dove si trova? Si fermi un attimo. No, se l'ha detto l'altro giorno davanti al Consiglio dei Ministri, ho letto sui giornali italiani, non smentiti, probabilmente l'ha detto oggi. Lunedì ci sarà un disastro sui mercati se tu, Silvio, resti. A torto o a ragione, così scrive il Financial Times, il problema per i mercati e per l'Europa sei tu. Cioè, lei è una frase che bisogna credere a questa cosa qua, che abbia detto... Scusi, come... prima. Ma come può andare avanti un governo in cui... Una situazione, un governo lo sappiamo, una situazione in cui la fiducia tra il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia, che in questo caso è, come dire, dovrebbe essere il principale collaboratore del Presidente del Consiglio, dovrebbe essere il baluardo del governo insieme al Presidente del Consiglio. La fiducia tra i due è a zero, ai minimi termini, nonostante le apparenze, il fatto che siate insieme allo stesso tavolo. Cioè, come può andare avanti una situazione di questo tipo? Berlusconi dovrebbe, perché non ha la forza di cacciare Tremonti? Beh, intanto non esiste la possibilità per il Presidente del Consiglio italiano, con la Costituzione che abbiamo, di intervenire nessun ministro. Purtroppo, dice lei? Purtroppo? No, è una constatazione, è impossibile cacciare qualunque ministro, per cui non esiste la possibilità del Presidente del Consiglio di mandare via un ministro, quindi il tema non si pone da quella parte. Mi sembra difficile che Tremonti l'abbia detto ragionando con calma, perché se così fosse, cioè, probabilmente se ne sarebbe andato lui, no? Perché se pensasse quello, non sarebbe lui il primo a non stare nel Consiglio dei Ministri, no? Quindi, perché? Perché se io penso che il mio Presidente del Consiglio, in questo caso, e lo dico anche pubblicamente, è un problema per i mercati, io che sono il Ministro dell'Economia, probabilmente anticipo le dimissioni, se fosse vero, no? Quindi non sarà sicuramente vero. Cioè, lei dice, se fosse vero sarebbe il primo a doversi dimettere? No, e se pensasse una cosa simile, probabilmente non sarebbe al governo, quindi il fatto che sia ancora al governo significa che non la pensa. Ma non è vero, perché come lei sa, le ambizioni delle persone vanno al di là di queste considerazioni. Cioè, non è l'ambizione, uno che chiede, forse è vero che ha chiesto quello al Presidente del Consiglio, vuol dire che non ha ambizione di durare anche lui, perché sa che cadendo il Presidente del Consiglio cade lui, quindi... Perché lei pensa che Tremonti senza Berlusconi, o se cade il governo Berlusconi, è finito politicamente, è finito? Una fase politica di cui lui è stato uno dei maggiori interpreti a fianco di Berlusconi, cioè non è che Berlusconi ha guidato la politica economica degli ultimi anni, l'ha sempre guidata Tremonti, quindi. Ma io non ho capito come un autorevole dirigente del PDL e bravo sottosegretario come Crosetto continui a sostenere una macchina che sta per schiantarsi contro un muro. Ma cosa si sostiene? Ma non sta sostenendo nulla, ma perché Parenzo? Guardi per serietà, Parenzo, io sono così scemo, come mi diceva qualche mio familiare. No, ma lo dico anche che nel giorno dei santi e dei morti, al posto di fare un weekend sommato guadagnato, dopo aver finito di lavorare al ministero, sono andato in Qatar e in Kuwait per cercare di vendere da una parte delle navi, dall'altra degli aerei, perché so che il problema di Finmeccanica e Fincantieri non si risolve così. Adesso sono a Roma, sono uscito dall'ufficio a Roma, ed è venerdì, e adesso sto andando in Piazza del Popolo, c'è la festa delle forze armate, ma fino adesso sono stato in ufficio. Poi, No, ma lo so che lei lavora. Però perché comunque, al di là delle parole e dei teatrini politici, ognuno ha una responsabilità e la assolve intanto. No, vabbè, ma questo Problema, ma però è Berlusconi. Non è che ci interroghiamo tutto il giorno sul governo Cade Berlusconi. Io, mentre qualcuno si interroga, decide se sostenere Berlusconi o meno, continuo nel mio piccolo a servire il paese. Ma ho capito, ma il direttore oggi, Crosetto, scusi un attimo, mettiamo... Fondo Monetario ha detto che manca la credibilità del paese, e non è una comunista la signora Lagarde a parte che non ha detto questo. Come no? Lagarde ha detto una cosa molto più grave: il paese manca di credibilità, di cui io non godrei molto se fossi come italiano. Non ha detto il Presidente del Consiglio, dice: noi non ci fidiamo della capacità dell'Italia di applicare le cose che abbiamo chiesto. Faccia attenzione, ma non lo dico per difendere Berlusconi, lo dico a futura memoria. Il giorno che non sarà più Berlusconi Presidente del Consiglio, sarà Pinco Pallino, Parenzo piuttosto che Bersani o Cruciani, il giudizio che queste persone daranno sull'Italia non muterà. Perché loro dicono che l'Italia non è in grado, l'Italia, per il sistema che ha... Cioè non si riferiva a Berlusconi, secondo lei? Ma perché lo vediamo? Perché lei vede una maggioranza in grado in questo momento, se non è in grado quella che è attualmente sgangherata, che attualmente sostiene il governo. Cioè, vede un'altra maggioranza in grado di applicare le cose sul mercato. No, io no, lo dico sempre. Allora, quindi questo, il giudizio dell'Europa, che non è degli organismi internazionali, che non è un giudizio politico, ma sulla possibilità o meno che un paese faccia determinate cose, sarà impietoso anche domani se cadesse questa maggioranza, se ne formasse un'altra. Allora, c'è una notizia che arriva adesso dall'ANSA, che non riguarda la politica, ma è una notizia importante, anche grave se vogliamo. Cioè, un uomo ha sparato al segretario del vescovo di Firenze. Betori o Betori, non so esattamente la pronuncia, mi sembra Betori. Betori, che è illeso, sarebbe illeso. Però insomma, poi naturalmente approfondiremo più avanti. Un uomo ha sparato, ripeto, al segretario del vescovo di Firenze, Betori illeso. Crosetto, io voglio capire una cosa: se Tremonti avesse pronunciato quella frase, davvero, la frase che gli attribuisce il Financial Times, sarebbe una cosa molto grave, Sarebbe una cosa che fossi in lui porrei all'interno del suo partito. Se lui la pensa così, contro il suo partito, ponga il tema, no? Discuta il tema, abbia il tema. Non è una cosa da porre ragionando col Financial Times o parlando con un collega tedesco, è una cosa che se uno pensa pone all'interno del suo partito, della sua maggioranza, dice io la penso così, la pone come tema politico. Ma siccome pare che la pensi così, non hai il coraggio per porla questa questione? Chiedetelo a lui, ogni tanto provate a sentire lui, sono stufo io di fare l'interprete del pensiero di Tremonti perché non riesco a comprenderne appieno. E allora la Berlusconi, adesso poi le chiedo di quello che è avvenuto a Omnibus, ma la Berlusconi, secondo lei, se dovesse verificare che la settimana prossima non ci sono i numeri, cosa dovrebbe fare? Sfidare il Parlamento, parlare al Parlamento e comunque cercare la conta, oppure andare da Napolitano? Io sono convinto che, avendo o non avendo la maggioranza, lui deve cercare di fare queste proposte e vedere se c'è una maggioranza, se lui non l'avesse più, che le porta avanti. Il suo programma di governo, sono una cosa che ci chiede il mondo e l'Europa per il paese, quindi vanno portati in Parlamento qualunque sia il destino del governo. No, ho capito, però adesso questo sono d'accordo anch'io che vanno portati in Parlamento, bisogna vedere che cosa si porta in Parlamento naturalmente, però se si accorge che non ci sono i numeri, che fa? Bisogna sfidare, deve parlare al Parlamento e comunque cercare di ottenere voti di fiducia, o andare da Napolitano e cercare le elezioni? so se ci sono contando, se quindi. Cioè, comunque, non la conta. La conta il Parlamento, comunque bisogna farla. Bisogna farla, se uno pensa di averli la fa, se uno pensa di non averli, magari evita di essere bocciato dal Parlamento, ma comunque. Ripeto, cioè, bisognerebbe evitare di essere bocciati dal Parlamento. Ripeto, io penso che il governo debba portare i provvedimenti economici e quello è da chiedere al Parlamento, a tutti i gruppi parlamentari, non solo alla maggioranza. E oggi ho provato a dirlo dichiarando a qualche agenzia, è una settimana, due di sega per portare avanti questo. Poi dopo. Cosa deve succedere? Se facciamo questa cosa con un alto senso a cui ci richiama il Presidente del Consiglio, poi se tra una settimana o due si riapre la bagarre, cade il governo, cadrà, se deve cadere cadrà, se non ha la maggioranza cadrà, ma prima portiamo a casa queste cose in modo diverso. Cioè diamo una lezione a quelli che dicono che non si fidano dell'Italia. Allora Cosetto, che è successo a Omnibus? Ha veramente detto quella frase? Sì, perché ho visto che poi ha chiesto scusa. No, qual era la frase? Faccio una premessa. La frase qual era innanzitutto? No, faccio una premessa. Io ho un rapporto con Antonella Rampino da 10 anni. Cioè, quindi se io dico qualcosa, non in televisione, ma quando i microfoni e le telecamere sono spenti. Scusi Crosetto, un attimo che preciso la notizia di prima, no? Un uomo armato di pistola ha sparato al segretario del Vescovo di Firenze, Giuseppe Bettori. Il segretario Don Paolo è rimasto ferito, il Vescovo è illeso, tanto per precisare, naturalmente non c'è differenza, l'importanza tra una persona e l'altra non c'è una no? Una diversa importanza, diversa. Una gravità diversa. Credo che gli spari fossero diretti, almeno da quello che leggo qui dall'agenzia, al segretario e non al vescovo, almeno così risulta dalle prime agenzie. Abbiamo preso il pazzo, questo qui l'ha preso. Sono le prime notizie che sono arrivate. Eccoci qua, 20:33, la Zanzara, 800 24 00 24. Da Roma David Parenzo, da Roma anche si sta recando a una festa delle Forze Armate. Guido Crosetto, sottosegretario alla difesa, è con noi. Allora, quasi vado anch'io alla festa delle Forze Armate. Vai anche tu, così impari qualcosa, dai. Non una festa, la festa delle Forze Armate. Non ho neanche fatto il servizio militare. Piazza del Popolo, sai, io in cose militari non sono molto. Anche tu non hai fatto il servizio militare? No, io l'ho fatto, come no? L'ho fatto. Generale, cos'eri tu? No, che generale, sì, generale. Cos'è? Dici? Cos'è? No, ma nemmeno sotto ufficiale. Ho fatto il soldato semplice. Colonnello Cruciani! No, ma che colonnello? Non capisci niente, che colonnello? Al massimo poi potevo essere. Ma maschi in caserma, come si con tutti i maschi in caserma? Vabbè, è normale, che a parte che ormai non è più così, in minima parte non è più così. Vabbè, allora. Crosetto, la frase è questa: non ti spoglierebbe nessuno, giusto? Come l'ha detta? Me lo ripeta un po' adesso per giocare? Faccio una premessa, però io a Antonella Rampino abbiamo un rapporto come un po' meglio, che io lo conosco da più anni che ho con voi due, che mando ogni tanto dei messaggi che voi vedete, cui vi dico ad esempio siete delle canaglie, no? Sì. Ecco, certo. Ma non lo faccio per insultarvi, a telecamere e microfoni spenti, siccome lei aveva concluso dicendo che noi del PDL avevamo candidato delle spogliarelliste, questo l'ha detto, questo è in video, io gli ho detto, gli ho fatto una battutaccia di cui mi sono subito pentito. Che è questa? Che è tipo quella che lei ha detto, e poi ho subito. No, tipo, allora mi dica l'originale, però. Siccome nessuno. Io ho detto tanto a te non ti spoglia nessuno, e poi ho detto a me e te non ci spoglia nessuno, quindi mi sono subito messo. Si arrabbiate, io sono uscito a fumare la sigaretta nella pausa, sono rientrato e le ho chiesto immediatamente scusa. Ho detto scusami, tanto noi quando veniamo qua ti chiamo sempre, poi quando siamo in privato ci parliamo. E lei lì non ha più detto niente, abbiamo fatto la seconda parte, ma la seconda pausa, cioè dopo. Ha litigato con la Franco Pace. Lei ha litigato con Pace, quando io sono rientrato lei stava uscendo, boccia l'ha convinta a rientrare, poi è entrata e ha fatto la sceneggiata in diretta e poi ha detto me ne vado perché Crosetto mi ha insultato. Però gli era passata la rabbiatura con Crosetto, si vede che gli è tornata prima, io gli ho chiesto scusa in diretta, a un certo punto, cioè, poi ho visto la federazione, la stampa. No, ma quelle sono tutte cose ridicole, vabbè, ma queste sono cose. Però siccome io non mi mancato rispetto a nessuno e non mi permetto mai, a lei ho esagerato per confidenza, come lo farei con un giornalista che conosco da 10 anni, lo faccio con un amico, che posso dire, lei a quel paese non si offende, no? Lei dice che insieme, cioè, ha detto, a te non ti spoglierebbe nessuno e anche a me non spoglierebbe nessuno. No, poi dopo ho detto a me e a te, mi sono accorto di aver detto una stupidaggine, e ho detto a me e te non ci spoglierebbe nessuno. Ma lei questo l'ha sentito? Sì, assolutamente, ma lei dopo non era più arrabbiato, poi sono rientrato, ho chiesto scusa, poi si è arrabbiata, dopo 2 ore ho visto che iniziava su Facebook, e siccome mi dispiace. No, ha detto questa è la cultura della destra, di Crosetto, eccetera. C'è la cultura della destra, adesso con tutto il rispetto che io, cioè, per fortuna 48 anni di mancanza di insulti a chiunque. Quella è una cosa che mi è scappata di confidenza. Mi è scappata per eccesso di confidenza? No, usando la confidenza che avevo con una persona che conosco da anni, quindi la prossima volta non lo farò più, ma se l'avessi detto a voi nessuno di voi si sarebbe offeso. O no, ma beh, sai, ci sono persone magari particolarmente sensibili su cose del genere. Non ho problema a chiedere scusa, ma senta, a me Sgarbi l'ultima volta che mi ha detto pelato, cioè, allora potrei anche... Vabbè, l'ha detto scherzosamente, l'ha detto... Se io avessi fatto la stessa scena è un insulto, cioè, primo. Secondo, un'altra cosa che mi colpisce, e dico, scusate, ma ha detto che noi abbiamo candidato eletto per spogliare le liste, questo invece non è passato inosservato. Quello invece va bene, è legittimo, no? Cioè, No, ma a parte le spogliare, la parola spogliare lista non è di per sé un insulto, perché è un mestiere normale, uno fa la spogliare lista. Però se io lo dico a una donna che incontro qua per strada, non penso che l'effetto sia positivo. Beh, no, perché perché è un paese bacchettone. Perché siamo un po' bacchettoni, adesso lasciamo, a parte che non è vero che è ci un sono lavoro nobilissimo. Le spogliare liste, adesso. Non toglie che se l'ho offesa anche e non volevo farlo, e l'ho offesa, le chiedo scusa tranquillamente, però adesso non mi sembra che neanche esagerare. Va bene. Dicendo che rappresento la cultura della destra per una volta fatta, magari sbagliata, cioè mi sembra eccessivo, via. No, questo tutto, e poi tutto eccessivo, la Federazione Nazionale della Stampa, le cose, tutto, sì, tutto questo è incredibile. Questo è la solita cosa. Anche per me è incredibile. Ho centinaia di giornalisti, tra cui voi due che conosco, perché conoscono il mio carattere e ho anni per... Ma non può scappare una cosa, sul momento uno chiede scusa, ma... Ma lei, quando io oggi ho letto la Federazione Nazionale della Stampa che mi chiedeva le dimissioni, no? Ma le dimissioni non l'ho letto, perché poi... O chiedevo scusa o dovevo dimettermi per indegnità o essere cacciato adesso. Per carità, io sono contento che tra tante colpe che vedo in giro dai politici, la mia sia quella di aver fatto questo errore. Se questo è il motivo per cui devo dimettermi, sono contento rispetto a tanti altri casi. Va bene, ma il suo collega Stracquadani ha visto, ha combinato, sì? Ho visto, ho sentito, sì. Ma come mai? Faglielo risentire. È impazzito improvvisamente. Ma che uno, cosa, è vero che, per carità, c'è una pressione in questo momento, un giornalista può essere anche particolarmente magari... aggressivo, però uno non può perdere la testa in questo modo, detto con tutto, no? O sbaglio? La telecamera. No, ma in generale anche nelle risposte, insomma, non è solo la telecamera, forse è una... sta vivendo molto male, con molta sofferenza questo cosa? Periodo. Perché? Questo periodo, perché? Questa decisione che ha preso, questa cosa, cioè questa Guadagno era e continua a essere, secondo me, il più berlusconiano dei parlamentari del PDL. Appunto. E quindi sta vivendo questa cosa come una contraddizione, quindi e con sofferenza. Per cui io sono convinto che io non lo vedo Stagualagno che non vota la fiducia a Berlusconi. Conoscendo Stagualagno, piuttosto di non fidarla, essendo un galantuomo, si dimetterebbe. Piuttosto che non votare la... No, guardi, conoscendolo e sapendo... Ma lui ha detto che non voterà mai la sfiducia, Quindi, ma se non si vuol dire... E perché allora la lettera, la richiesta di allargare la maggioranza, un invito a Berlusconi al limite anche a farsi da parte o comunque a promuovere lui? Cioè, perché una cosa... perché passare per dissidente, ecco? Perché, secondo lei? Per protagonismo? Per che cosa? No, perché ogni tanto, cioè, uno può avere le idee giuste o sbagliate, ma tira fuori, ecco. Voi prima mi avete fatto una domanda se è vero o no che Tremonti pensa quelle cose, no? Sono uscite sui giornali italiani, adesso quelli, lui non ha mai detto niente, però sono uscite. No, il portavoce ha smentito adesso, qualche minuto fa. Io stavo dicendo, lui ha avuto il coraggio di dire che pensava questa cosa con una sofferenza, ma io continuo a dire Stragualagno non è quello che poteva far mancare la fiducia a Berlusconi, non è sicuramente Stragualagno. Bene, grazie, allora si risenta in conclusione. Stracquadani alle prese con l'inviato di Piazza Pulita, mandatemi quello che volete, tanto è uguale. Onorevole Stracquadani, scusa. Onorevole Stracquadani, la pianti con quella telecamera. Onorevole Stracquadani, la pianti con questa telecamera. Onorevole, le storco il braccio come ha fatto lei. No, mi sta rompendo i coglioni. Stiamo lavorando. Sta violando un membro del Parlamento ed è visibilmente nervoso. No, io sono, mi avete rotto i coglioni. Chi le ha detto nulla? Luca, chi le ha detto nulla? Che cazzo, non si può neanche andare a mangiare fuori in questa città di merda. Ma perché vi arrabbiate così tanto? Sì, quel coglione con la barba che lavora con quel coglione di Formigli. Ma perché vi arrabbiate? Esatto. Capisco che siete nervosetti in questo momento. Lei la pianti di rompermi i coglioni! Bene, bene. Marcello della provincia di Teramo. Ma chi è Luca? Quando straguadagno e dice. Non lo so, sarà. Non lo so, bisognerebbe rintracciare Luca. Sarà un suo amico, un assistente, amico, non lo so. Sì. Marcello, provincia di Teramo, buonasera. Sì, buonasera, dottor Cusani. Dica. Senta, io chiamo per l'intervento iniziale fatto da onorevole Versace, che l'ho trovato veramente pieno di contraddizioni in merito alla motivazione che ha dato il fatto che ha lasciato la maggioranza. Perché lui inizialmente dice che in pratica lascia in quanto non ha ridotto la spesa pubblica, gli sprechi e così via. E poi qual è la soluzione geniale che dà? Creare un nuovo gruppo parlamentare. Non ho capito, scusi. E qual è la soluzione geniale che dà a questo? Creare un nuovo gruppo parlamentare. Che di per sé tutti sappiamo che vuol dire che saranno nuove spese, segretari, macchine e così via. Vabbè, adesso non credo che le persone vogliano creare un gruppo parlamentare oggi in questa situazione per avere prebende, insomma, Marcello, sarebbe veramente una follia. È per creare un gruppo parlamentare ogni tanto non è solamente, come dire, frutto di un piano mefistofelico per accaparrarsi dei vantaggi, è semplicemente il modo per fare politica. Dunque si crea un gruppo parlamentare tra persone che la pensano allo stesso modo per condizionare l'azione di governo, per condizionare questo, per condizionare quell'altro e per prendere, insomma, anche i soldi. Vabbè, ho capito, sì, però non è sempre così, cioè i gruppi parlamentari. Allora aboliamo l'esistenza dei gruppi parlamentari, cosa vuoi che ti dica? Allora, se esistono i gruppi parlamentari, ci sono delle persone che si mettono insieme. Insomma, io mi pongo anche il problema che magari queste persone vogliono dare un contributo al dibattito politico, pensano di stare insieme e dunque di essere più incisivi se possono pesare in Parlamento. Cioè, la politica è anche questa, cioè non, certo. Cioè, non è, io non posso la signora Giustina vabbè, ma che c'entra? La signora Destro, ex sindaco della tua città. Io non credo che voglia creare un gruppo parlamentare così accaparrarsi, certo, qualche segretario, per avere qualche prebendo, qualche centinaia di euro in più. E poi magari per molte persone sarà così, non lo so. Forse hai ragione, sì, per carità. Però qualche dubbietto ti viene, no? Vabbè, andiamo a Chieti, Mario. Mario, buonasera Cruciani. Volevo semplicemente non addentrarmi in problemi tecnici, perché non sono un tecnico, sono un semplice impiegato, dipendente pubblico a 1.400 euro al mese. Berlusconi, sì, indubbiamente lui dall'alto del suo scranno avrà i suoi torti, avrà tutto quello che vuole, se ne può dire di tutto e di più. Però in una piccola provincia come Chieti, Pescara, zona adriatica, eccetera, i ristoranti sono veramente tutti pieni. I centri benessere sono veramente tutti pieni. Sì, ma il punto non è quello. Lei potrà anche avere ragione, perché alcune spese non sono state, come dire, non sono state ridotte non per tutti, ma insomma per buona parte della popolazione. Ma la questione della crisi non può essere ridotta da Berlusconi a Cannes dicendo che i Ioli sono pieni, i ristoranti sono pieni, perché non è questo il punto. Il punto è la credibilità dell'Italia nell'affrontare certi problemi di fondo, strutturali. Sostanzialmente, qualcuno ha mai detto. Togliamo il finanziamento pubblico ai partiti, obblighiamo le organizzazioni sindacali a presentare i bilanci. Quello bisognerebbe dire. I parlamentari, oggi ci stanno, domani no, eccetera. Quelli che cambiano casacca dovrebbero avere il coraggio civile di dire: non condivido più quello che dice Berlusconi, mi dimetto da parlamentare, non dal PDL, passo all'UDC, passo al gruppo misto, passo di qua o passo di là. Dovrebbero dimettersi, avere il coraggio civile di dire: scusate signori miei, ho creduto in Berlusconi un anno, due anni, tre anni, quattro anni, vabbè, adesso nella prima, non condivido, mi dimetto. Sì, ma non è questione di dimettersi o non dimettersi, no, però, mi scusi, lo stesso discorso lo potrebbe fare l'opposizione. Se tutta l'opposizione vuol far cadere Berlusconi, si rimettesse in massa. Arriviamo agli estremi, però non parliamo. Il discorso è semplicissimo: non condivido più, passo dall'altra parte, voto contro Berlusconi, lo faccio cadere. Sì, vabbè, molto semplice. Va bene. Eccoci qua, 800 24 00 24, conclusione della zanzara con uno dei traditori, così li ha chiamati Berlusconi, non io, mica un mio giudizio, Parenzo. Berlusconi ha parlato di traditori, chi lascia la maggioranza. Si trova addirittura un incontro di pugilato a Firenze, l'onorevole Alessio Bonciani, che è passato all'UDC, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Come sta? Sto abbastanza bene, ancora un po' provato da una scelta che è stata sofferta, comunque sono convinto. Ecco, scusi un attimo, ma con chi ha parlato per passare all'UDC? Cioè, come si fa a passare all'UDC tecnicamente? Lei ha parlato con Cesa, con Casini, con chi ha parlato? Io ho parlato con Cesa e con Casini, sì. Ma cosa hanno per convincere? Toc toc, sono il signor Bonciani? No, è già da qualche mese che in Parlamento, non nel mio caso specifico, ma in generale ci sono, diciamo, dei colloqui informali, dopodiché una volta che si avvicina il momento della decisione, conoscendosi comunque, sì, si cerca semplicemente di concretizzare la cosa. Ma chi è che ha, scusi un attimo signor Bonciani, ma chi è che ha fatto il primo passo? Cioè, è lei che si è avvicinato a Casini in Parlamento o è Casini che si è avvicinato a lei? Diciamo che ci siamo avvicinati reciprocamente, vabbè, adesso non faccio torto a nessuno, insomma. Così è facile, su, adesso voglio ma dire, ha promesso la candidatura o no? Cioè, vi siete accordati per per un seggio, se ci sarà, è normale, è normale, è politica, non è normale, è normale, ma non è stato questo l'oggetto, cioè non è stata una trattativa come si può immaginare, tanto è vero che l'UDC in Toscana in questo momento ha due deputati uscenti, quindi io non ho trattato una ricandidatura con rielezione sicura. È evidente che un parlamentare uscente va in lista, ma non abbiamo affrontato la questione delle garanzie in maniera mercantile come si può pensare. Insomma. Comunque che lei vada in lista con l'UDC mi sembra evidente, essendo un parlamentare uscente, no? Giusto? Certo, lo sarebbe stato probabilmente in qualunque partito, poi sapete meglio di me che con questa legge la posizione è quella che conta. Ma lei vuole che rimanga questa legge? Ma guardi, francamente io penso che questa legge sia da correggere. Su che cosa? Ma innanzitutto sulla scelta, anche se cioè io vuole le preferenze lei? No, io sono per la scelta nel momento della formazione delle liste. Io spero che si riesca ad arrivare a una sorta di statuto pubblico dei partiti, quindi regole uguali per tutti, con primaria all'americana. Primaria americana, e poi comunque a quel punto liste bloccate. A quel punto, se si fanno le primarie, ci possono essere le liste bloccate, certo, tanto sono il risultato delle primarie. Senta, Bonciani, ma ripeto, passato dal PDL all'UDC. L'hanno insultata? L'hanno un po' insultata in queste ore, questa è una buona domanda, Parenzo, non è male. Grazie. Ma non c'è dubbio, qualche attacco c'è stato, qualche insulto c'è stato, erano nel cosa conto. Cosa le hanno detto, per esempio? Boia, traditore! Sì, prevalentemente l'attacco è quello basato sul tradimento. Beh, anche a Berlusconi, come risponde? A Berlusconi, che oggi ha detto quelli che passano dalla maggioranza o comunque che lasciano la maggioranza sono dei traditori, come vuole rispondere? Io non rispondo a Berlusconi, mi dispiace che il Presidente del Consiglio abbia scelto una strada di questo tipo, non è da lui, sono frasi che si addicono di più a, per esempio, a Storace, visto quello che ha detto, o ad altri, insomma, mi ferisce una cosa del genere detta da Berlusconi. D'altra parte è legittimo che in questo momento lui sostenga la sua posizione, quindi insomma non sono sorpreso. Però lei non si sente un traditore, però passa dalla maggioranza all'opposizione, eletto con Berlusconi passa all'opposizione. Io non mi sento un traditore per una serie di ragioni, la prima sarà banale, ma la legge deve valere per tutti, allora non è possibile considerare responsabili coloro che magari eletti nell'Italia dei Valori o in altri schieramenti non solo passano in maggioranza, ma contrattano questo passaggio a fronte di una posizione, per esempio, di un posto di governo, e per una persona che, credo, in coerenza con certi ideali, decide di lasciare un partito grande per approdare a un partito più piccolo in questo momento, sia pure se è dato in crescita nei sondaggi, non mi sembra francamente di aver fatto una scelta al guadagno personale. Lei dice guardi Berlusconi, guardi in casa sua con i responsabili, insomma, che No, io non mi rivolgo a Berlusconi. Vabbè, si può anche rivolgere a Berlusconi, da dato ai traditori, non è una cosa strana. È un ragionamento in generale. Ho capito, semplicemente che se non ci fossero stati dei passaggi, il governo probabilmente, senza bisogno della mia uscita, sarebbe caduto un anno fa, il 14 dicembre dell'anno scorso, quindi se questa regola vale, io mi sono semplicemente adeguato alle regole del gioco, non le ho decise io, insomma. Mi sono adeguato alle regole del gioco, cioè è possibile però passare da uno schieramento all'altro e la cosa non deve passare da uno schieramento all'altro, non c'è da scandalizzarsi. È di un'azione politica, io voglio in questo momento, il mio obiettivo è quello di creare le condizioni perché sia possibile un allargamento della maggioranza, sono profondamente convinto che senza un allargamento di maggioranza si faccia un danno non solo al paese ma anche al centrodestra, perché questo lo penalizzerebbe in una prospettiva elettorale, che si voti adesso o che si voti nel 2013, e quindi ripeto, queste sono le regole del gioco ormai da tempo in Parlamento e io mi sono adeguato a queste regole assolutamente. Dunque è legittimo il passaggio da uno schieramento all'altro, non deve destare scandalo, insomma, questa è la sostanza. È legittimo, non lo è. Se non lo è mi sta bene, però allora non lo è per nessuno, se lo è per tutti. Però è più nobile forse perdere tutto. Scusi, e andare all'opposizione che non alla in maggioranza. Ma questa è una tua valutazione, ma io non sto parlando di questo. Guardi Parenzo, non c'è in questo momento una corsa alla ricerca della nobiltà. Senta, Verdini l'ha chiamata? Verdini non mi ha chiamato, mi ha chiamato Angelino Alfano. E come ha risposto ad Alfano? Con cordialità, con la stessa cordialità e intelligenza con cui lui ha fatto la telefonata a me. È stata una telefonata. Ma chi le ha chiesto di tornare al PD, nel PDL? No, non mi ha chiesto. E Verdini, perché non l'ha chiamata? Che chiama tutti Verdini. Questo dovreste chiederlo a Verdini. Io perché non mi ha chiamato non lo so. Sapete bene che fra me e Verdini c'era un rapporto molto stretto E poi avete rotto. Oggi sul piano personale è difficile parlarsi come se niente fosse. Dunque, a lei da tempo non ha rotto. Non mi aspettavo una telefonata da Verdini. Mi dia una definizione plastica di Verdini come politico, una definizione in 10 secondi, cioè come lo definirebbe come politico? Bello. Guardi, per me Verdini è stata una figura di riferimento importante, io questo non lo posso assolutamente però rinnegare. Non andiamo assolutamente più d'accordo, perché io non ho condiviso alcune scelte che lui ha fatto e probabilmente, anzi sicuramente, lui non condivide le mie. Ma come lo definisce Verdini? Come è diventato? Gli porto rispetto, è uno che per stare dove sta ha pagato il biglietto e quindi comunque gli porto rispetto. Ha pagato il biglietto, che vuol dire? Vuol dire che ha le capacità e ha lavorato e ha ottenuto risultati per stare dove sta, quindi non è certamente un usurpatore di ruoli come invece in passato qualcuno l'ha definito, dopodiché in questo momento è su una posizione completamente opposta alla mia. Devo chiudere, ciao Parenzo! Ma mi dispiace. A lunedì 18:30 la Zanzara, se no ci tagliano ormai, sono disposizioni ferre. E ti piace così? Cioè, se ti piace questo spettacolo quotidiano, spread, bond e tutti che ci pigliano per il culo, se ti piace così, ma tienti questa roba qua, ti piace così? Va bene. Preferisco quello alla droga, quello all'alcol, quello a tutto quello che ti pare, cioè non vai mai in overdose di figa, ragazzi, dai, diciamola com'è. La patonza deve girare.